e mi auguro per voi che non abbiate sperato davvero che la Corte di Cassazione avrebbe fatto giustizia con o senza le virgolette sulla strage di Piazza Fontana. Secondo me, se vi interessa il mio faziosissimo punto di vista, non sarebbe stata fatta giustizia nemmeno se gli imputati fossero stati condannati in blocco. Quest'ultimo troncone del processo era frutto di indagini troppo tardive, fondate su rivelazioni troppo poco attendibili perché ne potesse uscire una qualche credibile verità giudiziaria. Una attribuzione definitiva delle responsabilità ai neofascisti avrebbe contribuito forse ad avvalorare un'interpretazione storico-politica dei fatti. Ma questo per fortuna non è compito dei giudici, cui si chiede di decidere soltanto sulle responsabilità personali e che non dovrebbero tener conto, almeno in teoria, delle petizioni di principio. Quel tipo di verità l'abbiamo scritta noi in questi anni di rifiuto delle versioni che ci venivano di volta in volta proposte dall'alto, e di essa tutto sommato dobbiamo e possiamo saperci accontentare. Quanto ai tribunali, ammetterò che negli anni non sono mancati i magistrati che hanno cercato di fare del loro meglio, ma l'istituzione giudiziaria nel suo complesso condivide con il potere politico buona parte delle responsabilità per come sono andate le cose. Essere assunta fin dall'inizio con l'incriminazione degli anarchici e poi con gli spostamenti e i rinvii dei processi, la reiterata incapacità di giungere a una conclusione definitiva, e i cittadini non possono che tenerne conto. Non che sia facile, Nemmeno il più scrupoloso dei cronisti, credo, oggi potrebbe ricostruire quell'estenuante percorso a zigzag tra procure e tribunali. E del resto si è appreso proprio in questi giorni che la stessa documentazione materiale di quegli eventi, e nel senso delle carte custodite in non ricordo più quale archivio, è in stato di avanzata decomposizione, per cui presto non se ne parlerà più del tutto. La Suprema Corte, i cui interventi in passato hanno regolarmente negato credibilità alle varie ipotesi inquirenti, anche questa volta non poteva far altro di quello che ha fatto. Non poteva neanche esimersi dal condannare i parenti delle vittime a pagare le spese di giudizio, perché questa non è stata una beffa, come si è scritto, né una caduta di stile cui si possa rimediare con un intervento di tipo caritativo. Si è trattato al contrario dell'inevitabile conferma dello stile di uno Stato e di una classe dirigente che per i propri errori non hanno mai pagato e non intendono certo cominciare a pagare. D'altronde sarà ben lecito dubitare che abbia senso una sentenza, qualsiasi, pronunciata 35 anni dai fatti. Ci vuole un bello sforzo, anche per noi che eravamo già adulti già allora, per ricordare com'era l'Italia ai tempi di Piazza Fontana. Tutti dicono che erano anni incasinati assai, ma non tutti ricordano che erano pieni, per così dire, di prospettive interessanti. E le speranze di una trasformazione radicale della società non erano, come si usa sempre da noi, limitate a una minoranza più o meno illuminata, e costituivano una volta tanto il patrimonio di un movimento un po' incerto quanto a strumenti di interpretazione, ma dallo straordinario radicamento sociale, dalla forte coscienza di sé e abbastanza libero in parte delle pastoie ideologiche più diffuse. E non che la rivoluzione fosse proprio dietro l'angolo, che ne pensassero alcuni di noi, ma qualcosa si poteva sperare di fare. Qualcosa, ma dal punto di vista di chi gestiva il potere, già troppo. Per questo hanno messo le bombe, no? Le hanno messe con la spietata determinazione che ha sempre caratterizzato certi apparati burocratici, e per ricondurre quel movimento ad ambiti ideologici e organizzativi più controllabili, per portare al potere la destra, per realizzare con calma tutte quelle trasformazioni culturali e costituzionali che avrebbero trovato la loro espressione più esplicita pochi anni dopo nel programma della P2. Oggi, che di movimento non c'è più traccia, che la destra è al potere, che il programma della P2 è stato realizzato quasi per intero, a chi volete che importi sapere come sono andate davvero le cose? La verità, come diceva quel tale, è sempre rivoluzionaria, e non è una cosa quindi che si possa cercare nei tribunali.